Libri primo e secondo. Sei grande, Signore, e degno di altissima lode. Grande la tua potenza, incommensurabile la tua sapienza. E vuole celebrarti l'uomo, questa particella della tua creazione, l'uomo che si porta dietro la sua morte, che si porta dietro la testimonianza del suo peccato e della tua resistenza ai superbi. Eppure vuole celebrarti l'uomo, questa particella della tua creazione. Tu lo risvegli al piacere di cantare le tue lodi, perché per te ci hai fatti, e il nostro cuore è inquieto finché in te non trovi pace. 5.5 Chi mi farà trovare quiete in te? Chi ti farà venire nel mio cuore a ubriacarlo? Che io dimentichi i miei mali, abbracci l'unico mio bene, te. Che cosa sei per me? Abbi pietà di me, lascia che parli. Che cosa sono io per te, perché tu mi ingiunga di amarti e t'accenda ad ira contro di me se non lo faccio, fino a lanciarmi la minaccia di tristezze enormi? Come fosse da poco già quella di non amarti. Un po' di indulgenza ti supplico, mio Signore, dimmi che cosa sei per me. Dillo a quest'anima, sono la tua salvezza. Dillo in modo che io loda. Ecco, sono davanti a te le orecchie del mio cuore. Aprile e dillo all'anima, sono la tua salvezza. E io correrò dietro a questa voce e ti troverò. Non celarmi il tuo volto, io morirò per non morire e vederlo. 5.6 Angusta la casa dell'anima perché tu venga da lei, falla più ampia. È in rovina, rimettila tu in piedi. Ha di che offendere i tuoi occhi, lo so e lo confesso, ma chi la ripulirà? A chi, se non a te, potrò gridare «Liberami, Signore, dalle cose nascoste anche a me stesso, e proteggi il tuo servo dagli altrui segreti. Credo, e per questo parlo. Signore, tu sai, di fronte a te non ho forse accusato me stesso dei miei delitti, Dio mio, e tu non hai assolto l'impietà del mio cuore? Io non discuto con te che sei la verità, e non voglio ingannarmi, perché la mia iniquità non mente a se stessa». No, non discuto con te, perché se terrai conto dei torti, Signore, Signore, chi potrà resistere? 6.7 E tuttavia consentimi di parlare davanti alla tua misericordia. Sono terra e cenere, eppure consentimi di parlare, perché è alla tua misericordia che parlo, non a un uomo che riderebbe di me. Anche tu forse ridi di me, ma se ti volgerai a guardarmi avrai pietà, perché in fondo altro non voglio dire se non che io non so da dove sono venuto. Qui, in questa vita mortale, dico, o morte vitale, non lo so. E mi accorsero i conforti della tua compassione, per quanto ho appreso dai genitori della mia carne, che tu hai formato nel tempo da lui in lei. Non ne ho memoria io. Mi accolsero dunque i conforti del latte umano, ma non erano mia madre o le mie balie a riempirsi da sé le poppe. Eri tu che per mezzo loro nutrivi la mia infanzia, secondo la regola che hai stabilito e le risorse che hai disposto sin nel fondo delle cose. E anche per tua volontà era dato a me di non voler di più di quanto davi, e a quelle che mi nutrivano di voler dare a me ciò che tu davi loro. Perché era nell'ordine delle cose il desiderio che avevano di darmi ciò che avevano in abbondanza da te. Era un bene per loro il bene che da loro traevo e che non da loro ma per loro mezzo era fatto. Perché da te vengono tutti i beni, Dio. Dal mio Dio mi viene tutta intera la salute. E me ne sono accorto poi, quando hai cominciato a gridarmelo proprio attraverso queste tue elargizioni, interiori ed esterne. Sì, perché tutto quello che sapevo fare allora era succhiare e godermi in pace i piaceri o piangere dei fastidi della mia carne, nient'altro. Poi cominciai anche a sorridere, dapprima nel sonno, più tardi da sveglio. Così almeno mi dissero, e io ci credo perché è quello che vediamo negli altri bambini. Io di tutto questo non ho memoria. Ed ecco che a poco mi rendevo conto del luogo in cui mi trovavo e volevo manifestare i miei desideri alle persone capaci di soddisfarli e non ci riuscivo perché gli uni erano dentro e le altre fuori di me e quelle persone non avevano un senso che le facesse accedere all'anima mia. E così mi mettevo a lanciare in aria braccia e gambe e grida, segnali con cui per poco che mi riuscisse esprimevo i miei desideri e che erano simili a questi in qualche modo, non al vero. E se non mi davano soddisfazione o per non riuscire ad intendermi o per non farmi danno, montavo su tutte le furie, solo perché i grandi non si piegavano ai miei capricci e delle persone libere rifiutavano d'essere schiavizzate e a forza di pianti mi vendicavo di loro. Così sono fatti i bambini. L'ho imparato più tardi da quelli che ho conosciuto e che così fossi anch'io me l'hanno rivelato meglio loro, senza saperlo, che i miei educatori con tutto il loro sapere. Dio ascolta. Maledetti i peccati degli uomini. È l'uomo che lo dice e tu hai pietà di lui perché tu lo hai fatto, ma non hai fatto anche il peccato che ha in sé. Chi mi rammenterà il peccato della mia infanzia se nessuno è innocente davanti a te, neppure il neonato che ha un giorno solo di vita sulla terra? E chi se non qualunque bimbo piccolissimo in cui vedo quello che non ricordo di me stesso? Qual era dunque il mio peccato allora? Forse l'avidità con cui boccheggiavo piangendo per il seno? Se lo facessi ora boccheggiando a quel modo, non per poppare, ma per un'esca adeguata ai miei anni, mi farei ridere in faccia e riprovare, e giustissimamente. Dunque era riprovevole anche quello che facevo allora, e solo perché non ero in grado di capirle, le riprovazioni erano fuori luogo e sarebbero state irragionevoli. Queste sono in effetti abitudini che la crescita stessa sradica ed elimina, e non si è mai visto che uno, facendo pulizia, getti via deliberatamente quello che ha di buono, a meno che non fossero buoni per quell'età anche altri vezzi, come quello di strepitare per cose che a ottenerle ci avrebbero fatto male, o di montare su tutte le furie se delle persone libere e adulte, magari i nostri stessi genitori e le persone più autorevoli, non si facevano tiranneggiare o non erano lì pronti al minimo cenno della propria volontà, e gli sforzi per vendicarsi per quanto possibile di loro picchiandoli solo perché non obbedivano a degli ordini che sarebbe stato pericoloso per noi eseguire. Dunque, è nella debolezza del corpo infantile l'innocenza dei bambini, non nell'anima. Io ho visto e conosciuto bene un bambino geloso. Non parlava ancora e già guardava livido, con occhi torvi, il suo fratello di latte. Chi non le sa queste cose? Le madri e le balie si vantano di averci chissà quali rimedi, ma non la si può chiamare innocente questa insofferenza, questo rifiuto di condividere con altri il latte per abbondante e ricco che fluisca alla fonte e per bisognoso che altri sia di quell'aiuto, il solo alimento da cui trae la vita. Ma a questo riguardo si è tolleranti e indulgenti, non perché siano cosa da nulla o da poco, ma perché sono destinate a venir meno con l'avanzare dell'età. Lo prova il fatto che questi stessi atteggiamenti non si possono più sopportare tranquillamente quando li si riscontrano in una persona più matura. Tu dunque, mio Dio e Signore, che hai dato al bambino vita e corpo, che come vediamo lo hai dotato di sensi e di membra ben compaginate, hai reso grazioso il suo aspetto e hai insinuato in lui tutti gli impulsi vitali adatti a preservarne l'incolumità in ogni condizione, tu mi ordini di renderti lode per tutto questo e di riconoscerti e di inneggiare al tuo nome, Altissimo, perché sei un Dio onnipotente e buono e lo saresti anche se questa fosse la tua sola opera che non poteva essere compiuta da alcuno se non da te, unico, da cui viene ogni misura, modello di bellezza che ogni cosa modelli e ordini secondo la tua norma. Ebbene, mio Signore, questa età che non ricordo di aver vissuta, riguardo alla quale mi affido ad altrui resoconti e che solo osservando altri bimbi arguisco di aver avuto anch'io, per affidabile che sia questa congettura, ecco, mi pesa doverla considerare parte di questa mia vita che sto vivendo qua giù nel secolo. Quanto a tenebre d'oblio, in effetti è pari a quella che ho vissuto nell'utero di mia madre. Ma se sono stato perfino concepito nella colpa e mia madre mi ha nutrito nell'utero fra i peccati, dove, ti chiedo, dove, mio signore, io, servo tuo, dove o quando sono stato innocente? Ma via, di quel tempo io non mi occuperò. Che cosa posso avere in comune oggi con qualcosa di cui non trovo traccia nella memoria? È proseguendo dall'infanzia qui che sono arrivato alla fanciullezza, o piuttosto è questa che è venuta a compiersi in me succedendo all'infanzia? Del resto quest'ultima non se n'era andata. E dove andava? Eppure non c'era più. Non ero più un infante, privo della parola, ma un bambino parlante. E di questo mi ricordo bene, mentre del modo in cui avevo appreso a parlare mi sono reso conto solo più tardi. Non erano gli adulti in effetti a insegnarmi le parole presentandomele con qualche ordine didattico, come poco più tardi fecero con l'alfabeto, ma ero io che me le insegnavo da solo con l'intelligenza che tu mi hai dato, Dio mio. Perché a forza di gemiti e gorgheggi e gesti mi sforzavo di manifestare i miei stati d'animo in modo da farmi obbedire, ma non riuscivo a esprimere tutto quello che volevo e neppure ci riuscivo con chi volessi. Ma la memoria era come prensile. Quando gli adulti menzionavano qualche oggetto e in base a quel suono protendevano il corpo nella sua direzione, io osservavo e tenevo a mente che così, con quel suono che emettevano quando volevano indicare l'oggetto, essi lo chiamavano. E che questo fosse ciò che volevano si capiva chiaramente dal movimento del corpo, come pure da quella sorta di linguaggio naturale di tutti i popoli, fatto di espressioni del volto e cenni degli occhi e di gesti delle altre membra e di toni di voce, sintomi questi dei diversi affetti che accompagnano lo sforzo di acquisire qualcosa o il suo possesso, la ripulsa o la fuga. Così, a poco, a furia di udire le stesse parole e ricorrere in una certa posizione in diverse frasi, capivo quali fossero le cose di cui quelle parole erano segni, e ormai vi avevo addestrato abbastanza gli organi della bocca per riuscire a formulare i miei desideri col loro aiuto. E così arrivai a comunicare con le persone circostanti mediante i segni che danno espressione verbale alla volontà. Ed entrai più profondamente nella tempestosa comunità della vita umana, senza cessar di dipendere dall'autorità dei genitori e dal minimo cenno degli adulti. 9.14 Dio, Dio mio, quante ne ho viste di miserie e di raggiri allora, quando ancora bambino mi proponevano come ideale di vita l'obbedienza a quelli che volevano fare di me un uomo di successo e un vincitore nelle arti della chiacchiera, che servono a procacciare prestigio fra gli uomini e false ricchezze. Fui mandato a scuola, a imparare a leggere e a scrivere, senza avere la minima idea, infelice, di che uso se ne potesse fare. E tuttavia, se ero tardo nell'apprendere, mi battevano. Perché era un metodo approvato dagli adulti, e molti venuti al mondo prima di noi avevano aperto le dolorose vie per cui ci costringevano a passare, tanto per accrescere un po' la dose di fatica e affanno riservata ai figli di Adamo. Là però trovammo anche, mio Signore, persone che pregavano te, e da loro venimmo a sapere, per quanto era nelle nostre possibilità, che tu esistevi. Eri grande, un personaggio capace di ascoltarci e soccorrerci anche senza apparire ai nostri sensi. E da bambino infatti cominciai a pregare te, soccorso e rifugio mio, e sfrenavo del tutto la mia lingua quando ti invocavo e ti pregavo, per piccolo che fossi, con passione non piccola, di fare che non mi battessero. E siccome non mi esaudivi, a tutto svantaggio della mia ignoranza, gli adulti e perfino i miei genitori, che pure non volevano mi accadesse nulla di male, ridevano delle botte che mi toccavano, come non fossero allora per me un male grande e angoscioso. 10.16 Eppure io peccavo, Signore Dio, ordinatore e creatore di tutte le cose in natura, ma dei peccati solo ordinatore. Signore Dio mio, peccavo perché facevo il contrario di quello che i genitori e quei maestri mi imponevano. Perché più tardi avrei saputo come far buon uso della grammatica, quale che fosse l'intento che i miei perseguivano nel volermela fare apprendere. Io poi non disubbidivo perché mi garbasse far di meglio, ma per amore del gioco. Mi piaceva vincere le gare, lo trovavo esaltante, e farmi solleticare le orecchie dalle storie fantastiche e farne crescere il prurito con la stessa curiosità sempre più intensa che mi faceva scintillare gli occhi di fronte agli spettacoli, questi giochi degli adulti. Eppure chi li fa gli spettacoli ne acquista un prestigio tale che quasi tutti lo augurerebbero ai propri figli, salvo consentire volentieri che questi siano puniti se gli spettatori li distolgono dallo studio, che pure, nei loro desideri, è il mezzo per arrivare a produrne di propri. Guarda tutto questo, Signore, con cuore indulgente, e libera noi che ti invochiamo ormai, e libera anche chi ancora non invoca te, perché ti invochi e sia liberato. 11.17 Ancora bambino avevo sentito parlare della vita eterna che ci era stata promessa per l'umiliazione del Signore Dio nostro, disceso fino a noi e al nostro orgoglio. E già ero stato segnato col segno della sua croce e spruzzato del suo sale, appena uscito dall'utero di mia madre, che aveva molto sperato in te. Tu lo vedesti, Signore, quando ero ancora un bambino e un giorno improvvisamente un'occlusione di stomaco mi fece venire una febbre altissima e quasi stavo per morire. Vedesti, Dio mio, tu che fin da allora m'eri custode, con che emozione e con che fede chiesi il battesimo del tuo Cristo, del mio Dio e Signore, alla devozione di mia madre e della madre di noi tutti, la tua Chiesa. E la mia madre, secondo la carne, che più di ogni altra cosa desiderava partorire ancora la mia salvezza eterna dal fondo puro del suo cuore nella tua fede, già si apprestava con angoscia ad affrettare la mia iniziazione ai sacramenti della salvezza, in modo che ne fossi lavato e ti glorificassi, Signore Gesù, per la remissione dei miei peccati, quando improvvisamente guarii. E così la mia purificazione fu differita. Quasi fosse stato inevitabile che mi insozzassi ancora continuando a vivere, perché certamente ritrovarsi nel fango di ogni colpa dopo quel lavacro avrebbe comportato uno stato d'accusa più grave e più pericoloso. Dunque anch'io già credevo, come lei e tutti in casa, salvo mio padre, che tuttavia non riuscì a soffocare in me i diritti dell'amore materno fino a impedirmi di credere in Cristo come non ci credeva ancora lui. Ella infatti faceva il possibile perché tu mi fossi padre, Dio mio, invece di lui, e in questo tu l'aiutavi ad essere da più del marito, che ella, pur essendo migliore di lui, serviva, e in questo servizio che tu hai comandato era ancora te che serviva. 17.27 Consentimi, mio Dio, di dire qualche cosa anche del mio ingegno, questo tuo dono e dei vaneggiamenti in cui lo consumavo. Mi assegnavano un compito che bastava mettere in ansia quest'anima, fra la speranza di un riconoscimento e il timore delle busse, come ad esempio quello di esporre il discorso di Giunone furente e addolorata, di non poter stornare dall'Italia il re dei Teucri, un discorso che non le avevo mai sentito fare. Ma eravamo costretti anche noi ad andare errando dietro alle fantasie dei poeti e a dire in prosa quello che il poeta aveva detto in versi, e più lodato era chi più plausibilmente, tenendo conto del rango del personaggio abbozzato, sapeva interpretarne l'ira e il dolore, scegliendo adeguatamente le parole con cui rivestire questi sentimenti. Ah, vita vera, Dio mio, che vantaggio ricavavo io dagli applausi tributati alla mia recitazione davanti a molti coetanei e condiscepoli. Eccoli lì. Era tutto fumo e vento. Dunque non c'era altro mezzo di esercitare il mio ingegno e la lingua. Le tue lodi, Signore, stese da un capo all'altro delle tue scritture. Le tue lodi mi avrebbero sorretto il vitigno del cuore e non mi sarebbe stato razziato e trascinato via per i deserti della frivolezza come preda sconciata dagli uccelli. Già, in molti modi si sacrifica agli angeli caduti. 18.28 Ma che c'è di strano se mi lasciavo trascinare a questo modo fra le vanità e uscivo sempre più da te, Dio mio, quando mi si proponevano a modello degli uomini che se li si rimproverava di essere incorsi in qualche barbarismo o solecismo nel raccontare qualche loro azione per nulla indegna, restavano confusi. Ma andavano ben fieri dei complimenti che ricevevano se riuscivano a parlare dei loro impulsi viziosi in una lingua da puristi, costruendo le frasi a regola d'arte con facondia ed eleganza. Tu vedi tutto questo, Signore, sei longanime, molto pietoso e veridico, e taci, ma tacerai per sempre, e ora strappi da questa vertiginosa profondità l'anima che ti cerca e ha sete dei tuoi piaceri, mentre ti dice il cuore: ho cercato il tuo volto mi manca, Signore, lontano dal tuo volto nel buio degli affetti. Già, non è a piedi o attraversando lo spazio che ci si allontana da te e a te si ritorna. Non aveva bisogno di cavalli e di carri o di navi, non prese il volo con un vistoso sbatter d'ali, non consumò la strada a forza di garretti quel tuo figlio minore, quello prodigo, per andare a vivere in un paese lontano dove dissipare quello che alla partenza tu gli avevi dato. Tenero padre che molto gli desti, e più tenero ancora quando ritornò, povero ormai. Perché chi vive fra gli impulsi del desiderio è nel buio degli affetti, cioè lontano dal tuo volto. 19.30 E io bambino me ne stavo infelice sulla soglia di quella vita, ed era degna palestra di quel genere di competizioni la scuola dove più ansiosamente mi guardavo dai barbarismi che dall'invidia verso quelli che non ne commettevano, se capitava a me. E per questo, Dio mio, lo dico e lo confesso a te, ero apprezzato da quelle persone la cui approvazione allora costituiva tutto l'onore della mia vita. Non la vedevo la voragine di bruttura in cui m'ero sprofondato lontano dai tuoi occhi, e nella loro luce nulla, ne sono certo, fu allora più detestabile di me, se riuscivo a dispiacere perfino a quella gente, a furia di bugie con cui ingannavo l'istitutore, i maestri e i genitori, per la voglia che avevo di giocare, la passione per gli spettacoli leggeri, con l'istrionica smania di imitarli che mi mettevano addosso. Rubavo anche dalla dispensa di casa e da tavola, o per gola o per avere di che far doni agli altri bambini, perché la loro compagnia per giocare, benché ci si divertissero quanto me, me la vendevano. Nel gioco poi ero dominato dalla vana ambizione di eccellere al punto che spesso rapinavo vittorie fraudolente. Lo facevo agli altri, ma non lo sopportavo da parte loro, e se li coglievo in fallo protestavo fierissimamente. Ma se ero io ad essere colto in fallo e redarguito, preferivo arrivare alla violenza piuttosto che cedere. E questa sarebbe l'innocenza dei bambini? No, non esiste, Signore, non esiste. Ma figuriamoci, Dio mio. Sempre la stessa storia, prima per noci e palline e passeri sotto gli istitutori e i maestri e poi sotto i prefetti e i re per loro, i poderi, gli schiavi. Sempre la stessa storia, mentre le età si succedono sempre più avanzate, come alla verga succedono più gravi supplizi. Per questo tu che sei il nostro re non hai voluto approvare nella statura infantile che è il simbolo dell'umiltà, quando hai detto: è di chi assomiglia a loro il regno dei cieli. 20.31 E tuttavia, Signore, che altissimo e ottimo fondi e governi tutto ciò che esiste, a te, Dio nostro, grazie, anche se mi avessi voluto davvero soltanto bambino. Sì, anche allora esistevo, vivevo e sentivo, e mi prendevo cura della mia conservazione. Questo ricordo o traccia della tua misteriosa unità da cui venivo. E avevo l'intima percezione dei miei sensi per custodirne l'integrità, e anche in quei miei piccoli pensieri di piccole cose prendevo gusto alla verità. Non volevo essere ingannato. Avevo una memoria vivida, ero dotato della parola, mi lasciavo intenerire dall'amicizia, fuggivo il dolore, l'avvilimento, l'ignoranza. Che cosa c'era in quell'essere vivo che non fosse mirabile e degno di lode? Ma tutti questi sono doni del mio Dio. Non sono stato io a darmeli, e sono beni, e tutto questo sono io. Dunque è buono quello che ha fatto me, ed è lui il mio bene, e rendo onore a lui per tutti i beni che costituivano il mio essere, anche da bambino. Il mio peccato era soltanto di non cercare in lui, ma nelle sue creature, in me stesso e negli altri, piaceri, distinzioni, verità. E così precipitavo incontro a dolori, equivoci ed errori. Grazie, mia dolcezza, mia gloria, mia fiducia. Grazie, Dio mio, dei tuoi doni, ma tu conservameli. E così mi salverai, e crescerà e si compirà quello che tu mi hai dato. E io sarò con te, perché se sono, è soltanto per te. 1.1 Voglio ricordare le passate brutture e le devastazioni inflitte dalla carne all'anima. Non perché io le ami, ma per amare te, Dio mio. È per amore del tuo amore che lo faccio e ripercorro le vie della mia infamia e l'amarezza di questa rimemorazione. Perché tu possa addolcirmela, dolcezza senza inganno, tu felice dolcezza senza angosce. Che mi raccogli dalla dispersione e ricomponi i mille pezzi in cui mi sono frantumato, quando volgendo le spalle all'uno, a te, sono svanito nel molteplice. Vi fu un tempo, l'adolescenza, in cui bruciavo dalla voglia di provare le cose più basse, e fino in fondo, e mi lasciai pullulare una selva di ombrosi amori, e la mia bella forma ne fu devastata, e qualcosa marcì dentro di me ai tuoi occhi, mentre a me stesso piacevo e volevo piacere agli occhi degli uomini. 2.2 Niente mi deliziava quanto amare ed essere amato, ma non ne mantenevo la misura, da anima ad anima, il luminoso limite dell'amicizia. Come una nebbia saliva dal limo del desiderio sensuale e dagli umori della pubertà e mi oscurava, mi offuscava il cuore. Fino a che il chiaro cielo dell'affetto si confondeva alla foschia dell'erotismo. E tutte e due m'accendevano dentro un solo incendio e cacciavano allo sbaraglio improvviso delle passioni quella malcerta età e la sprofondavano in un pozzo di vergogna. La tua collera era cresciuta sopra di me e non me ne accorgevo. Mi lasciavo assordare dallo stridore di catena della mia mortalità. E andavo via più lontano da te, che mi lasciavi andare, ed ero agitato e traboccante, e colavo fuori ribollendo di voglie, e tu tacevi. Mia tardiva allegrezza. Tacevi allora, io lontano da te sempre più mi perdevo in mille e mille sterili semi di dolori, superbo nell'abiezione e nella fatica inquieto. 2.4 Infelice, invece ruppi gli argini, abbandonandomi a quel mio impeto fluviale, e ti lasciai, e oltrepassai tutti i limiti della tua legge, e non scampai al tuo staffile, e chi vi scampa tra i mortali? Tu eri sempre là, con feroce tenerezza, a tormentarmi, a cospargere di amarezza e disgusto tutte le mie allegrie di seduttore, perché cercassi l'allegria che non disgusta. E ci fossi riuscito, là niente avrei trovato all'infuori di te, Signore, di te che mascheri di dolore la legge, e ci colpisci per guarirci, e ci uccidi per non lasciarci morire lontano da te. Dov'ero, in quale esilio lontano dalle dolcezze della tua casa, in quel sedicesimo anno d'età della mia carne? Fu allora che si impadronì di me E io mi ero consegnato con le mani legate. Una frenesia di piacere amoroso, disonore dell'uomo quando è sfrenato, illecito per le tue leggi. I miei non si curarono di arginare col matrimonio quel fiume in piena che ero. La loro unica preoccupazione era che imparassi a comporre discorsi migliori e a persuadere con l'arte oratoria. 3.6 Ma quando ero appunto nel 16° anno, dovetti interrompere la scuola per queste ragioni familiari e nell'intermezzo di vacanza tornai a stare coi miei genitori, altissimi mi crebbero i rovi della libidine, tanto che ne fui soverchiato. E non c'era mano che li sradicasse, anzi mio padre una volta che ai bagni si accorse guardandomi che ero già in piena pubertà con tutti i segni di un'adolescenza inquieta, preso da una specie di esaltazione all'idea dei futuri nipoti, lo fece notare a mia madre ed era pieno di gioia, di quella sbornia di gioia in cui questo mondo si è dimenticato di te, del suo creatore, e si è innamorato delle tue creature, ubriaco di un vino invisibile. La sua volontà perversa incline a ciò che è più basso. Però nel cuore di mia madre tu avevi già gettato le fondamenta del tuo tempio, della tua sacra dimora, mentre lui era soltanto un catecumeno e per di più di fresca data. Fu un duro colpo per lei, che fu presa da trepidazione e religioso timore. Benché ancora non fossi battezzato, paventava le vie tortuose in cui cammina chi volge a te la schiena e non la faccia. 3.7 Infelice. E oso dire che tu tacevi, Dio mio, mentre mi allontanavo da te. Tacevi davvero allora per me? E di chi erano, se non tue, le parole che mi cantavi nelle orecchie per bocca di mia madre, a te fedele? Ma non mi scendevano in cuore, nemmeno una ci arrivava per tradursi in fatti. Lei voleva che io rinunciassi agli amorazzi. E mi ricordo l'ansia enorme con cui mi ammoniva in segreto, soprattutto di guardarmi dall'adulterio con qualunque donna sposata. E a me parevano consigli da donne che mi sarei vergognato di seguire. E invece erano i tuoi, e io non lo sapevo. E credevo che tu tacessi e che a parlare fosse solo lei, quella di cui tu ti servivi per non tacere. E in lei io disprezzavo te, io sì, suo figlio, figlio della tua ancella, servo tuo. Ma lo ignoravo e correvo a precipizio, talmente cieco da vergognarmi di essere meno svergognato dei miei coetanei. Li stavo a sentire mentre si vantavano dei loro vizi. E più erano brutti, più se ne gloriavano, e quel che piaceva era fare non solo per il piacere del fatto, ma anche per il prestigio che ne conseguiva. Che cosa meriterebbe di essere biasimato più del vizio? Ma io diventavo più vizioso per non essere biasimato, e quando per difetto di colpe non arrivavo alla pari coi peggiori, mi inventavo azioni che non avevo commesso, per paura di apparire tanto più meschino quanto meno ero colpevole, e di essere giudicato tanto più vile quanto più ero casto. 4.9 Certamente la tua legge punisce il furto, Signore, e così la legge scritta nel cuore degli uomini, che neppure la loro ingiustizia può cancellare. Non a caso non c'è ladro che si lasci derubare senza batter ciglio, neppure se è ricco e l'altro ruba per sfamarsi. E io volli commettere un furto. Lo commisi senza essere in miseria. O forse sì. Povero com'ero di giustizia, che avevo a noia, e straricco di iniquità. Rubai quello che avevo in abbondanza e di qualità molto migliore. E del resto non era per goderne che volevo rubarlo, ma per il furto stesso, per il peccato. C'era un pero nelle vicinanze della nostra vigna, carico di frutti non particolarmente invitanti all'aspetto o al sapore. Era una notte fosca e noi giovani banditi avevamo tirato così in lungo i nostri scherzi per le strade, secondo un'abitudine infame, e ce ne andammo a scuotere la pianta per portar via le pere. Ce ne caricammo addosso una quantità enorme, e non per farne una buffata noi, ma per gettarla ai porci, e se anche ne assaggiamo qualcuna fu solo per il gusto della cosa proibita. Ecco il mio cuore, Dio. Ecco il cuore che in fondo all'abisso ha suscitato la tua pietà. E questo cuore ora ti deve dire che cosa andava cercando laggiù. Volevo fare una cattiveria gratuita, senza avere altra ragione d'essere malvagio che la malvagità. Era brutta e l'ho amata. Ho amato la mia morte, il venire a mancare. E non l'oggetto di questa mancanza, no, ma la mia mancanza stessa ho amato. Anima vergognosa che si schiode dal tuo fondamento per annientarsi, e non per qualche bruttura particolare, ma per il suo desiderio del brutto. 5.11. Quando si cerca il movente di un delitto, di solito non si resta convinti, finché non viene in luce la possibilità almeno che si tratti del desiderio di uno di quei beni che abbiamo definito inferiori, o la paura di perderlo. Sono pur sempre cose belle e degne, ancorché spregevoli e basse, di fronte a quelle fonti di beatitudine che sono i beni superiori. Uno ha ammazzato un uomo, perché l'ha fatto? Desiderava sua moglie, o il suo podere, o voleva procurarsi di che vivere con una rapina, o temeva di perdere una di queste cose per colpa della vittima, o si è lasciato infiammare dal desiderio di vendicarsi di un'offesa. Avrebbe mai ammazzato un uomo senza una ragione, per il puro piacere dell'omicidio, e chi potrebbe crederlo? Di un uomo crudele fino alla pazzia è stato scritto che era malvagio e crudele in modo gratuito, ma perfino in questo caso viene data una ragione, subito prima. Perché, diceva, non gli si intorpidisse la mano o la mente nell'ozio. E anche questo, a che scopo? Perché? È evidente. Quell'allenamento ai delitti gli serviva per impadronirsi di Roma, ottenere cariche pubbliche, potere, ricchezze, per liberarsi dal timore delle leggi e dei problemi derivanti dalla povertà della sua famiglia e dal rimorso per i delitti compiuti. In conclusione, perfino Catilina non amava i propri delitti, ma un'altra cosa, il fine per cui li perpetrava. 6.12. E a me, infelice, cosa piaceva in te, mio furto, notturna bravata dei miei 16 anni? Non eri bello, dato che eri un furto, ma sei qualcosa tu, perché io ti rivolga la parola? Erano belli i frutti che rubammo, perché erano creature tue. Bellissimo, fra tutte le cose, loro autore, Dio buono, Dio sommo bene, è mio bene vero. Erano belli quei frutti, ma non erano la cosa desiderata da quest'anima miserabile. Perché io ne avevo in abbondanza di migliori, ma colsi proprio quelli, soltanto per rubare. E infatti una volta che li ebbi colti, li gettai per abbuffarmi soltanto della mia ingiustizia, che mi dava un gran piacere. E se qualcuno di quei frutti mi finì sotto i denti, era la brutta azione che gli faceva da condimento. E ora, mio Signore Dio, io mi chiedo che cosa mi piacesse tanto in quel furto, e non ci vedo un'ombra di bellezza. Non dico di quella che si trova nella giustizia e nella saggezza, ma neppure di quella che sta nella mente dell'uomo e nella sua memoria, nei suoi sensi e nella vita vegetativa. Non un'ombra. Non lo splendido rango delle stelle, non la bellezza della terra e del mare, folti di vite in potenza nella vicenda di nascite e morti, neppure infine quella bellezza evanescente e umbratile che è il fascino ingannevole dei vizi. 6.13. In fondo l'orgoglio è un omaggio alla grandezza, quando tu solo sei l'eccelso Dio, al di sopra del tutto. E l'ambizione che cosa cerca, se non onori e gloria, quando a te solo, fra tutte le cose, sono dovuti onori e gloria eterna? E la ferocia dei potenti vuole essere temuta. Ma di chi è che bisogna aver timore, se non del solo Dio? Al suo potere chi è che può strapparsi, o comunque sottrarsi, quando, dove, da chi, per fuggir dove? E le carezze degli amanti vogliono farsi amare, ma non c'è carezza più lieve del tuo amore e non c'è passione più salutare di quella per la tua verità, lucente e bella sopra ogni altra cosa. E la curiosità si atteggia a brama di conoscenza quando il conoscitore massimo di tutto sei tu. Perfino l'ignoranza e l'idiozia si coprono col nome di semplicità e innocenza, perché nulla c'è di più semplice di te. E nulla di più innocente se sono le azioni dei malvagi a rivoltarsi contro di loro. E l'ignavia è una sorta di aspirazione alla quiete, ma c'è una quiete certa come Dio. Il lusso poi si fa chiamare soddisfazione e abbondanza, ma sei tu la pienezza e ricchezza senza fine di un indistruttibile benessere. Lo sperpero si nasconde all'ombra della generosità, ma sei tu il più abbondante dispensatore di ogni bene. L'avidità vuol molto possedere, tu possiedi tutto. L'invidia contende il primato, e cosa è migliore di te? L'ira cerca vendetta, chi nella vendetta è più giusto di te? La paura si sgomenta ad ogni insolita e repentina minaccia all'integrità delle cose amate e cerca nella prevenzione la sua sicurezza. E cosa c'è di insolito per te, di repentino? Chi può togliere a te quello che ami? Dove, se non da te, la vera sicurezza? La tristezza si strugge per le cose perdute che lusingavano il desiderio, perché vorrebbe che nulla le si potesse strappare, come a te. 8.16 Povera me, che frutto raccolsi allora dalle cose che ora mi fanno arrossire a ricordarle? E soprattutto dico, da quel furto, commesso per amore del furto e per nient'altro, dunque per niente, niente essendo il furto, così da farmi più povero ancora. Eppure non l'avrei fatto da solo, se ricordo l'animo mio di allora. Da solo non l'avrei compiuto affatto. Dunque era anche la complicità dei miei compagni d'avventura ad attrarmi. Dunque non è vero che era il furto in se stesso a piacermi e nient'altro. Ma sì, invece, nient'altro, perché anche quella complicità non era niente. Già. Che cos'è in realtà? Che cosa sia può insegnarmelo solo colui che illumina il mio cuore e discerne le sue ombre. Che significa questo? Che mi viene in mente di indagare, discutere e valutare quel fatto. Se allora fossi stato attratto dai frutti che rubai e avessi desiderato di godermeli, avrei potuto compiere anche da solo quell'ingiustizia, ammesso che uno solo bastasse, e arrivare così a cavarmene la voglia senza stare lì a sfregarci le coscienze per infiammare il mio prurito di arraffare. Ma siccome non era in quei frutti il mio piacere, era solo nella colpa, e a suscitarlo era la complicità. 9.17 Che stato d'animo era quello? Il meno che si possa dire è che era brutto. Guai a me che lo provavo. Ma pure, in che cosa consisteva? I peccati, chi li capisce? Un riso ci solleticava il cuore all'idea di far torto a della gente che non se l'aspettava proprio da parte nostra e si sarebbe infuriato. Perché allora mi divertiva tanto non farlo da solo? Forse perché non è facile ridere da soli? Non è facile. Eppure capita anche a singole persone, quando sono sole e nessun altro è presente, di scoppiare a ridere se vedono o gli viene in mente qualcosa di irresistibilmente comico. Però io non l'avrei fatto da solo no, assolutamente. Eccolo, davanti a te, mio Dio, il vivido ricordo di quest'anima. Da solo non l'avrei compiuto, quel furto commesso non per la cosa rubata, ma per il piacere di rubare. A farlo da solo non c'era nessun gusto e non l'avrei mai fatto. Inimicissima amicizia, inspiegabile seduzione della mente, ansia di male nata dal gioco e dallo scherzo e desiderio di far danno agli altri senza frenesia di guadagno o di vendetta, quando qualcuno dice andiamo, facciamo, e si ha pudore a non essere impudenti.